quant'altro. Diamo la parola al sindaco Mario Chiul. Nando, buonasera a tutti, grazie per l'invito. No, io volevo, ho sentito le relazioni di chi mi ha preceduto, volevo solo precisare alcune cose, cioè, ma anche il ruolo del Comune in questa vicenda che, da come si evidenziava prima, è un ruolo che viene fuori da una procedura che era partita già da prima e che in qualche modo rispetto alla... poiché il Comune non è proprietario di quest'area, questo ribadiamo, anzi io vorrei fare alcune integrazioni a quello che è stato detto. Il Comune non è proprietario, al momento c'è questa procedura di trasferimento della proprietà da Ferrovie della Calabria alla Regione, ma non credo che questa sia stata formalizzata, tant'è che Ferrovie della Calabria ancora ha richiesto lo sgombero al fine di fare questa. Quindi in realtà al momento la proprietà è a carico, è ancora di Ferrovie della Calabria, e quindi c'è questa procedura in atto che è, oltretutto il valore di quest'area, come è stato giustamente sottolineato, è portato in bilancio, credo proprio da Ferrovie della Calabria, per circa 8 milioni di euro. Quindi in realtà, poiché Ferrovie della Calabria è un'azienda che ha tutta una serie di problematiche, si aspetta da questa proprietà di ricavare questa somma per finalizzarle poi a situazioni interne che sono abbastanza complesse. Questa è una precisazione. L'altra è che questa area, come giustamente si diceva, è un'area che nel vigente PRG è zona F3 a servizi e prevede un indice di 4,5 metri cubi su metri quadri, che è un indice molto consistente, cioè per un'area così grande vuol dire che si possono realizzare degli immobili e dei volumi molto consistenti. Quindi ecco, per questo, in funzione di questo c'è un valore elevato. C'è di più, che nel 2002, nel Consiglio Comunale del febbraio 2002, quest'area ha subito una variazione del PRG, da quello che mi risulta, poiché la zona F3 prevede questa tipologia di servizi, di cui il 70% per attività legate ai servizi e il 30% invece misura ridotta per abitazioni, invece c'è stata una variazione in Consiglio Comunale in cui questo 70% è stato invertito, cioè 70% ad abitazioni e 30% a servizi. In più, con un asterisco in questa delibera di Consiglio Comunale, che prevede la possibilità di realizzare qui grandi centri commerciali. Quindi questa è una integrazione a quell'informazione che è stata detta prima. Quindi questa è un'area zona F3 variata in Consiglio Comunale febbraio 2002 in modo tale che si possa ed è consentito quindi in quest'area realizzare fabbricati anche per civile abitazione, quindi per residenze, addirittura centri commerciali per una consistente volumetria. L'amministrazione comunale di Cosenza, da quando io sono sindaco, ha già previsto prima, oltretutto già nel mio programma, che in quest'area non si potranno realizzare questi edifici, perché in quest'area invece bisogna secondo me di qualificare questo spazio e tener conto. Preciso che per quanto mi riguarda quello che è stato detto, lo condivido pienamente, cioè in quest'area si fanno delle attività importanti, adesso non voglio dire quasi tutte, magari forse ci sono anche situazioni di occupazione magari anche a fini privati di alcuni spazi, ma da quello che ho riscontrato personalmente in questo anno, perché prima non ero non avevo piena conoscenza, in questo anno si svolgono attività molto importanti, sociali e anche culturali, e ho fatto le domande anche delle persone che hanno usufruito e usufruiscono di queste attività, e tutte mi hanno confermato questo che dico. Quindi io sono pienamente consapevole dell'importanza delle attività che si svolgono in quest'area, delle persone che le svolgono, delle associazioni che le fanno, e quindi ritengo che sia importante che questo contributo venga portato, continuato alla città, anzi se possibile, anzi da un anno che ci stavo lavorando, io avevo in mente, ma ne abbiamo parlato già, tra l'altro ci ho vi avevo anche invitato, perché adesso nell'ultima settimana poi non ci sono stato, avevamo già sulla base delle indicazioni che c'erano state, avevamo già pensato ad una idea di riqualificazione di questo spazio, che presuppone ovviamente che il comune entri nella proprietà, perché intendiamoci, qua vuol dire al momento il comune non ha la proprietà di quest'area, quindi per prima cosa bisognerebbe acquistarla, espropriarla, con quello che significa anche da un punto di vista avere un finanziamento, avere delle risorse ed entrarne in possesso. Noi nel frattempo abbiamo lavorato secondo le indicazioni che ci sono state fornite, e quindi con questa idea di progettazione partecipata, che in questa fase, diciamo, sottoponendo poi in incontri successivi quello che poi da questo quadro esigenziale e da questi incontri è venuto fuori, diciamo, organizzato in un discorso formale architettonico, per rimettere dentro queste attività, oltretutto prevedendo anche eventualmente una cantierizzazione, diciamo, dell'area, in modo tale da poter lasciare anche nel frattempo che si bonifica, diciamo, questa, intanto alcuni corpi lasciarlo, perché secondo me sono anche sono dei corpi che hanno, come dire, un valore già intrinseco, e quindi si possono recuperare, riqualificare, ma poi voglio dire si può fare una cantierizzazione parziale e lasciare le attività nell'aria, e poi man mano, voglio dire, quindi fare degli spostamenti. Quindi se si fa un progetto con una certa valenza, si può prevedere anche la fase di cantierizzazione dove le attività oltretutto non vengono spostate. Quindi questo secondo me sarebbe l'ideale. Rispetto a questo, noi che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo messo questa attività nella programmazione, diciamo, delle nostre attività, l'abbiamo anche inserito nel nostro programma, quindi questo è un dato, diciamo, anche pubblico. Quindi io parlo di fatti, diciamo, che sono avvenuti. Intanto, rispetto alle procedure, come è stato sottolineato, noi siamo già, e l'ha fatto ovviamente il dirigente, perché ad un anno di ritardo da quando un'amministrazione precedente, io adesso non voglio dire se giustamente o meno, secondo me anche giustamente, perché ci sono delle responsabilità oggettive. Cioè qui non è che il comune ha fatto, anche l'amministrazione precedente, io non voglio adesso accusare chi è stato venuto prima di me, anche perché l'ha fatto un dirigente, quindi un motivo ci sarà stato, non è stata secondo me una scelta politica, non lo so questo, però voglio dire, non voglio valutarlo, ecco, non voglio entrare nel merito. In ogni caso, voglio dire, è una procedura che è partita da prima, è una procedura che noi dopo un anno, il dirigente oltretutto secondo me doveva farlo molto prima, non l'ha fatto, vi dico la verità, senza neanche informarmi, perché sono avvenute nel frattempo delle situazioni, quindi lui giustamente è stato in qualche modo, ha dovuto fare quello che era opportuno, perché non è che ha fatto uno sgombero per cacciare le persone, ha fatto uno sgombero dietro richiesta dell'ente proprietario, che è Ferrovie della Calabria, per consentire di fare una bonifica. Voglio sottolineare che il comune, altri tre ordinanze dirigenziali di sgombero verificato sono state fatte nell'ultimo anno, sempre su situazioni come queste, di privati che erano stati denunciati, c'erano degli elementi di pericolo, che voglio dire, i privati devono rimuovere l'amianto, in questo caso è Ferrovie della Calabria che deve rimuoverlo, e altrimenti il comune addirittura dovrebbe sostituirsi ai privati per rimuovere l'amianto, perché è un problema di incolumità pubblica, di salute pubblica. Quindi voglio dire, il comune ha partecipa in modo quasi involontario, però voglio dire, c'è questa esigenza di salute pubblica. Rispetto alla proprietà, rispetto anche a quello che stavate suggerendo, io sono favorevole, cioè, fermo restando che, cioè, a me piacerebbe che questa attività intanto si potesse in questo centro continuare le attività che ci sono, anche consentendo, diciamo, la rimozione di questo amianto, e quindi svolgere, potreste farlo voi, questa era una proposta, ma bisognerebbe farla a Ferrovie della Calabria, perché non siamo noi i proprietari, cioè i proprietari sono Ferrovie della Calabria, e tenete conto che, ripeto, sono proprietari che da quest'area, questo lo dico perché si aspettano un corrispettivo, un valore, perché se fosse stato un proprietario privato difficilmente sarebbe stata occupata quest'area, no? Ferrovie della Calabria evidentemente ha trascurato questi spazi, e poi, però adesso, siccome c'è delle esigenze di bilancio, anche per un discorso secondo me legato a Corte dei Conti, a dirigenti che poi devono, è difficile che possa dire come proprietario dell'area No, questo è una valutazione mia di tipo personale, diciamo, amministrativa. Dopodiché il comune che può fare? Cioè, noi possiamo semplicemente dire che io ho avviato con Ferrovie della Calabria un dialogo, ho incontrato il direttore generale, ho detto che in quest'area mi interessa, ovviamente non abbiamo le risorse per acquistare 8 milioni con 8 milioni quest'area come comune, però ho detto che questa volumetria che è prevista in quest'area potrebbe essere spostata in un'altra area di Ferrovie della Calabria, che è a Gergeri attualmente, dove, voglio dire, secondo me è più compatibile. E da conto che io sono un architetto progettista, quindi non sono contro la costruzione di volumi. Secondo me cosa diversa è costruire volumi con intenti speculativi e costruirli, voglio dire, senza nessun criterio, come è stato fatto negli ultimi anni. Ma la città è fatta di volumi, è fatta anche di spazi aperti, quindi non costruire fabbricati, volumi di per sé non è. Ovviamente bisogna pensare alla riqualificazione, al recupero, anche alle spalle. Adesso abbiamo costruito volumi nelle zone popolari che andrebbero demoliti e ricostruiti, ma voglio dire, questo è perché è stata costruita male la città, non perché sono stati costruiti i volumi. Quindi, comunque, in ogni caso, l'interlocuzione che ho avuto con Ferrovie della Calabria, che mi era sembrata favorevole, e su questo noi abbiamo già elaborato un primo progetto. Fra l'altro io mi sono incontrato anche con RFI, che c'è un'area contigua a quella di Ferrovia della Calabria, su Gergeri, per fare un piano anche di riqualificazione in quella zona. Noi abbiamo proposto di spostare la volumetria lì ed entrare in possesso di questa area attraverso un finanziamento per realizzare questo progetto che stavamo un po' condividendo. Quindi questa è la posizione del comune. Fermo restando che noi in itiner abbiamo l'adozione di un strumento urbanistico che non consentirà l'edificazione in quest'area, da un punto di vista tipologie che non sono conformi, diciamo, a quello che noi abbiamo in mente come sviluppo di questa città. Quindi, però, noi allo Stato, ripeto, la situazione è questa. Noi abbiamo un BRG che sicuramente non ha fatto questa amministrazione, non voglio dire, negli anni quando è stato fatto evidentemente c'era una politica urbanistica di questo tipo, quindi non è neanche una colpa chi l'ha fatto a suo tempo. Ha provocato tutta una serie di situazioni. Nel 2002 addirittura c'è stato, secondo me, un aggravamento di questa situazione, perché qui non si possono fare più solo servizi, ma addirittura palazzi, si può fare anche un centro commerciale enorme, uno qui e uno alla fine, un altro alla fine di via Popilia. Adesso noi invece, oggi, dove, vuol dire, c'è una sensibilità diversa rispetto a questi argomenti, abbiamo ritenuto che qui non sia possibile fare queste opere. Però è un percorso a cui dobbiamo arrivare. La richiesta che fate è quella di mediare. Certamente io proverò a mediare, ma tenete conto che, ripeto, l'area non è di proprietà del comune, quindi chi deve concedervi poi l'uso di questi spazi non è il comune di Cosenza, ma è Ferrovie della Calabria. Anzi, io vi dirò di più: noi nel caso siamo pure disponibili a trovare delle soluzioni temporanee, alternative, se ci sono. Non abbiamo grandi spazi, voglio dire, ma possono anche essere prese in considerazione. Era questo anche l'intento della mia richiesta, a seguito, diciamo, della vostra, di incontrarci per discutere, diciamo, quello che noi già abbiamo programmato e che sta andando avanti su quest'area, anche perché, ripeto, siccome c'è la volontà dell'amministrazione di non consentire l'edificazione di edifici di tipo residenziale, perché secondo me qui non ce n'è più necessità, anzi questa è l'unica area di raccordo tra la parte, diciamo, tra via Popilia, la zona est della città e la zona ovest, la parte nuova, e quindi secondo me è giusto, voglio dire, che ci sia questa riconnessione con attività sociali e culturali. Quindi comunque, in ogni caso, voglio dire, non sarà consentito realizzare questi edifici. Questo dopodiché, voglio dire, cioè noi possiamo incontrarci, abbiamo delle altre strutture, voglio dire, possiamo, ovviamente noi governare, diciamo, sì, qua ci sono altri amministratori, quando uno governa deve tenere conto di tante situazioni, di tanti punti di vista. Noi non possiamo ovviamente dare delle strutture che non sono conformi alla legge, che non hanno magari l'agibilità, che hanno l'amianto, che hanno in copertura, che hanno situazioni di non sicurezza. Quindi l'obbligo di rispettare, diciamo, le norme. Quindi noi abbiamo delle strutture, per esempio potrebbero essere adeguate o potrebbero essere date, poi, diciamo, con l'impegno a chi viene dato di adeguarle, però per consentire l'agibilità queste strutture devono essere rese agibili, cioè devono essere rese sicure, perché se ci fosse un incidente, a quel punto, voglio dire, chi l'ha dato rischierebbe, diciamo, personalmente, quindi in questo caso non il sindaco ma i dirigenti che ormai hanno tutte questi oneri. Quindi noi siamo anche disponibili, diciamo, a trovare soluzioni alternative. Speriamo, io farò comunque questa, se ci incontriamo, vediamo se insieme alla Regione, insieme anche a Ferrovie della Calabria, troviamo il modo di entrare in possesso, diciamo, di quest'area come comune. E voglio dire, questa è un'operazione che si può fare subito in consiglio comunale, noi possiamo già provare, io ce l'ho già pronto, quindi io non aspetto neanche di andare in variante allo strumento urbanistico, con un nuovo strumento urbanistico. Io voglio dire, noi siamo anche disponibili a portare in consiglio comunale già una variante per pubblica utilità e variare la destinazione di quest'area e quindi non consentire comunque, diciamo, di fare queste. Dopodiché Ferrovie della Calabria, se li vuole i volumi, li avrà da qualche altra parte, non è che siamo contro Ferrovie della Calabria, intendiamoci, però voglio dire, per quanto ci riguarda, diciamo, siccome noi siamo già a buon punto con la stesura, diciamo, di questo progetto, potremmo addirittura portarlo in consiglio comunale per l'approvazione, se ci incontriamo, diciamo, va bene, potremmo comunque perseguire questa strada. Dopodiché dobbiamo aspettare di avere la proprietà, perché voi possiate essere autorizzati, ma sempre in situazioni di sicurezza, nel senso che se voi restate qui comunque dovete avere i requisiti, diciamo, dal punto di vista della sicurezza degli spazi, per restare ed esercitare, diciamo, le vostre attività, che noi a questo punto, voglio dire, come vi avevo già detto nei mesi passati, anzi stavamo cercando altre soluzioni perché che era più dignitoso, diciamo, per alcuni spazi, siamo già disponibili. Dopodiché io vi ringrazio, sono a disposizione, diciamo, vostra, e speriamo di poter risolvere nel migliore dei modi questa situazione. Grazie. Io fra l'altro non posso stare molto perché ho una cosa con la CGL. Sì, no. Io giusto due. Un appunto sulla questione in merito all'ordinanza che il dirigente ha emesso. C'è una domanda a lui o a voi, non lo so. Noi l'anno scorso, alcuni di noi siamo stati sentiti dalla Procura della Repubblica proprio in merito alla questione amianto. Abbiamo fatto delle dichiarazioni, già allora ci eravamo resi disponibili persino a contribuire allo smaltimento per quello che era nelle nostre possibilità con Ferrovie della Calabria. Da quel momento ad oggi sono passati più di un anno, cioè si poteva parlare prima, fare un tavolo di confronto con le ferrovie, lo si poteva fare prima e non aspettare l'ordinanza così che cioè fatta in questo modo, che diventa, scusatemi, anche offensiva nei nostri confronti e per il lavoro che svolgiamo gratuitamente tutti i giorni. Quindi questo è un appunto per l'ordinanza che è stata. Per quanto riguarda invece la bonifica e la proprietà, visto che c'è questa intenzione del comune di acquisire l'area, di spostare le volumetrie in altri luoghi per ferrovie, visto che c'è tutto questo progetto appunto da portare avanti, passerà del tempo. Cioè io non vedo la difficoltà, arrivato a questo punto, facendo un tavolo di confronto con ferrovie, cioè una volta bonificata l'area e rimessi i tetti, nel far continuare qui le nostre attività. Quindi quello che le chiediamo è fare un tavolo tecnico con ferrovie, non dialoghi informali fatti così per telefono. Questo, facciamo un tavolo magari anche in prefettura, cioè davanti al prefetto, in cui si discute di questa cosa. Questa è la nostra. Scusa, io come dicevo, non per giustificare il dirigente, ma il dirigente ha aspettato un anno prima di fare da un anno che l'ordinanza era di Bartuccio, dall'amministrazione precedente, di marzo dell'anno scorso, mi pare. Quindi il dirigente lo ha fatto dopo determinati atti che sono stati ci passati da quel tempo, e quindi vuol dire già abbastanza rischioso per il dirigente. Comunque vuol dire, è una responsabilità che si è assunto. Io ho già detto che per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, noi siamo favorevoli, quindi vuol dire, non è che devo Dopodiché sono anche favorevole a fare il tavolo, ma non dipende dal comune, questo voglio sottolineare, qui dipende da altri enti, che sono gli enti oltretutto che hanno anche la proprietà, quindi hanno il valore di quest'area. Quindi teniamo conto di una cosa, noi ci scontriamo con una situazione in cui c'è un valore di un'area e un ente che ce l'ha, voglio dire, in bilancio, nel patrimonio, quindi non è che facilmente un ente, secondo me, però voglio dire, io sono favorevole a questa, anzi porterò, ripeto, in consiglio comunale l'approvazione del progetto rispetto a quelle che sono le nostre decisioni, diciamo, anche rispetto alla destinazione di quest'area, e quindi voglio dire, in quel caso diventano solo opere pubbliche che si possono realizzare con quelle tipologie sociali e culturali. Però voglio dire, che sottolineo, perché noi siamo l'ente a cui ci interessa solo la salubrità in questo caso, cioè noi, voglio dire, noi abbiamo, come dire, soltanto l'obbligo di sanare alcune situazioni. Dopodiché, se voi restate qui, non è che dipende dal comune, perché non è la proprietà nostra. Se fosse proprietà, anzi io vi dico, sì, per quanto riguarda alcuni edifici che sono di proprietà del comune, se volete il comune, voglio dire, che ha la proprietà e quindi può disporre di quelli. Noi siamo anche favorevoli, nel caso Ferrovie non fosse favorevole, a trovare soluzioni di tipo diverso, ma per gli edifici, per le proprietà comunali, non per quello di Ferrovie. Quindi noi in questo caso possiamo semplicemente fare una richiesta a Ferrovie, anche, io ho parlato già anche col prefetto, anche in presenza del prefetto, credo che sia anche disponibile, diciamo, a fare un tavolo e chiedere appunto quello che voi dite, me ne faccio anche portatore, nel senso che per me andrebbe addirittura meglio, però sicuramente non dipende dal comune, quindi voglio dire che non ha...